quando vien appuntamente, guardo mare, guardo fronne, si te parlo non risponde, stai distratta con me. Io te tengo d'indagare, son cotempo innamorato, ma tu invece vien zanato, e te stai scordando me. Quando ti dice sì, tu tieni la mente, non sa da fa morire, non vuole amante. E tu mi dici che sì, voglio bene sulla te, e tremando me giuraste una mano in capo cuore, e non si scorda prima amore, ma tu stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mano, da fa morir nuvore amante, e tu mi diciste sì, no, tu erai maggio, e mo ti ero grazie. Tu mi dicesti sì, rasoi.